22, sono di pensando, non sei sicuro a diritto, però io non so di... Ho bisogno di ascolto, ma tanto per il conto di fare questo con i veri. Non si può dire che si farà due sono paesi che non hanno già la matrice. Sono 03 ci saranno i tempi dei conversatori non ho mai visto ma non ho Marcos, libere a última, a esquerda, na taxeria, eu pego o polo da Israel até o Pacífico. 不对？ Thank you.

2 e Paulo Alves 00, espera a próxima esquerda de Lima, faz até o Mato Rodrigo. Então, agora só um instante.